incontri. Ecco, con questa musica del gladiatore, bentornati alla seconda parte del nostro incontro di oggi con Ettore Gotti Tedeschi, presidente dello IOR, responsabile per l'Italia del Banco di Santander. Il gladiatore, cosa le ricorda Gotti Tedeschi? Mi ricorda una considerazione che il gladiatore fa all'inizio del film, quando guida l'esercito romano a difendere le frontiere, probabilmente contro popolazioni del nord, no? E per motivare i suoi legionari dà un messaggio che mi piace moltissimo. Dice sostanzialmente: non dimenticate che le vostre azioni qui sulla terra risplenderanno successivamente nel vostro futuro, cioè dopo la vita. Ecco, questa mi è sembrata una considerazione estremamente interessante, considerando che allora non c'era nessuna visione ancora soprannaturale cattolica, e quindi questo gladiatore aveva una prospettiva duplice: primo, che ci fosse una vita che continuasse, ma secondo, che fossero le azioni compiute oggi sulla terra a creare quei meriti per cui una persona venisse premiata o no. Quindi il gladiatore come una persona che in fondo era una persona che guardava il trascendente, guardava anche all'aldilà, guardava ai valori di fondo. I valori di fondo allora che ci portano in fondo a una domanda essenziale. Lei è un banchiere cattolico. È possibile essere, e come è possibile essere un banchiere cattolico? Sì, però ritornando un attimo, se lei mi permette, prego, al gladiatore, no? Sì, è vero. Ma soprattutto il valore delle proprie azioni, no? Al di là di quello che si crede, no? La fede è fatta di cose importanti, ma anche l'operatività è importante, perché la fede si deve alla fine concretizzare nel comportamento, perché altrimenti dove si vede che uno ha fede e che la dimostra? Rispondo alla domanda. Ecco, io non sono affatto un banchiere cattolico. E questo è un punto fondamentale. Io sono un cattolico che in questo momento fa il banchiere, per se vuole usare l'espressione banchiere, che in realtà ogni tanto mi fa anche un po' ridere, nel senso che cerco di fare alcune cose, ma soprattutto io sono un cattolico che le fa, non tanto un banchiere cattolico. Se uno poi mi domanda che cosa vuol dire questo, vuol dire in pratica fare di tutto per dare un senso alle proprie azioni. Quindi ritorniamo quasi al gladiatore, eh? È come se il gladiatore era un gladiatore cattolico, no? Era un cattolico che faceva il gladiatore. Ecco, ma allora poniamolo in un altro modo. Lei ha scritto un libro, il titolo Denaro e Paradiso. Ora, si dice spesso il denaro è un frutto del diavolo, e c'è scritto anche nel Vangelo: è più difficile che un ricco entri nella, che un cammello entri nella cruda di un ago, che non un ricco entri nel regno dei cieli. C'è sempre stata una visione così un po' cattolica, diciamolo, in cui la ricchezza era qualcosa che era contraddittoria rispetto alla fede. Ma non cattolica, però su questo non posso affatto essere d'accordo. Non c'è un solo passaggio nei Vangeli che esprimano, se vogliamo, la memoria storica con cui nasce il cattolicesimo. Non c'è un solo passaggio che attacca i ricchi. Anche il famoso ricco che fatica a entrare nella cuna dell'inquanto cammello, fantico, non è ricco, è un ricco perché è come il ricco Epulone. Il ricco Epulone non è condannato perché è ricco, ma perché disdegna i poveri, disprezza i poveri, perché non fa carità, perché tiene per sé egoisticamente il suo denaro. Essere ricchi non è un demerito, anzi, è una responsabilità in più. Beh, comunque sia, non è, oltre ad essere una responsabilità, non è un demerito, perché se una persona nata ut operaretu fa bene le sue cose, lavora bene, produce dei buoni risultati, si impegna, è fortunato, produce ricchezza. E se questa ricchezza qualcuno non la produce, la ricchezza non può di per sé essere distribuita. Quindi la produzione di ricchezza, che è quel motore del progresso, della crescita economica, del benessere, anche materiale, ma anche molto spesso anche che si estende al benessere cosiddetto integrale, come Papa Benedetto spiega nell'enciclica, è un bene. Come essere poveri non è un merito, è un merito il distacco dalle cose, È un merito l'essere poveri in spirito, ma non esserlo materialmente, necessariamente. Ecco, però il sistema capitalistico, il sistema fondato sul denaro, è un sistema che presenta anche molte ingiustizie, molte disparità, anzi si dice che questa crisi, quest'ultima crisi, abbia allargato le ingiustizie, le disparità, le disuguaglianze. Ma se io vorrei, vediamo un po', ogni sistema umano che regola la vita dell'uomo sulla terra non provoca una giustizia perfetta. Se questo fosse, saremmo o nel vecchio paradiso terrestre o saremmo già nel futuro paradiso. Ecco, quindi è impensabile che le azioni umane producano perfezione in quello che fanno. È vero che il capitalismo produce, dato che stimolando l'azione umana genera ogni tanto, molto spesso forse anche, un'attitudine all'egoismo dell'uomo nelle sue azioni, genera delle ingiustizie, però non conosco nessun altro strumento, struttura con cui si possa regolare la vita economica migliore del capitalismo. L'alternativa al capitalismo cos'è? Il dirigismo? La terza strada, le quarte strade non esistono. Il capitalismo alla fine si fonda su un principio, che è la disponibilità ai privati dei mezzi di produzione. Se questo è il capitalismo, ben venga il capitalismo, perché questo significa che l'uomo ha il diritto a usufruire delle proprie risorse, del proprio sforzo, che diventa creazione attraverso il lavoro, creazione di risparmio, il risparmio viene investito in mezzi di produzione e l'uomo crea benessere e ricchezza per sé e per gli altri. Ecco, il capitalismo viene spesso visto solo come società dei consumi, come libertà dei consumi, ma non bisogna dimenticare che è anche e soprattutto libertà di produrre, di essere produttori, di essere imprenditori, di essere quindi capaci di modificare anche il corso degli eventi. Però c'è anche un aspetto che anche appunto un sistema di libertà ha bisogno di regole. Sono state messe sotto accusa le regole negli ultimi mesi, come per l'incapacità che hanno avuto le regole che gestiscono il sistema, che gestiscono appunto il sistema degli scambi, per essere capaci di evitare crisi come quelle che abbiamo avuto. E sono veramente le regole da mettere sotto accusa? No, forse sì, nel senso che sicuramente qualcuna ci sono delle regole che non hanno funzionato, ma non hanno funzionato le regole, non hanno funzionato i regolatori. Qui vedete, l'altro giorno ho letto su un importante giornale una considerazione che sul capitalismo. È finita il capitalismo, bisogna inventare un nuovo capitalismo con nuove regole. In realtà il problema non è il capitalismo, ma è chi lo usa. E qui noi dobbiamo ritornare a riprendere quella distinzione essenziale tra fini e mezzi che un tempo l'uomo che studiava, che l'uomo che rifletteva, l'uomo che voleva capire aveva chiaro. Oggi non l'abbiamo più chiaro. L'economia, la finanza, il capitalismo sono strumenti, sono puri strumenti di per sé neutrali, che in sé non fanno né il bene né il male. Il bene o il male lo fanno in funzione di chi li usa e che senso dà loro l'uso. Conseguentemente è inutile voler cambiare il capitalismo, voler cambiare tante regole. Di regole ne abbiamo tante, lo sentiamo dalla mattina alla sera, abbiamo mille leggi. Vengono applicate male da chi? Dall'uomo. Allora chi va riformulato e chi va formato è l'uomo. Ha ragione Papa Benedetto XVI quando parla di emergenza educativa. È il pensiero che va aiutato a crescere, non è tanto l'azione, perché l'azione consegue al pensiero. Se il pensiero è debole, se le idee non ci sono, sono sbagliate, il comportamento conseguentemente sarà sbagliato. Ecco, a proposito dei comportamenti, allora è significativo che lei abbia posto tra le cause della crisi il calo della natalità, la mancata capacità di questa società di, in fondo, di sperare nel futuro e quindi di fare i necessari figli perché il futuro si realizzi. Dunque, sul fatto che l'origine originale sia il crollo delle nascite e conseguentemente il crollo dello sviluppo naturale sostenibile, che è stato cercato di compensare con altri strumenti che compensassero il fatto che in un sistema dove la popolazione non nasce c'è meno gente che va a produrre, più gente che costa, aumentano i costi fissi anzitutto, non si possono più diminuire le tasse e diminuisce il risparmio, conseguentemente un sistema si blocca. Allora che cosa si fa? Progressivamente si cerca di aumentare la produttività, si fa la delocalizzazione in Asia di determinate produzioni e poi si arriva all'unica cosa essenziale per inventarsi la crescita del PIL, che è il debito. il debito delle famiglie, il debito delle imprese, il debito dei governi, per far cosa? Per sostenere una crescita che altrimenti sarebbe impensabile. E fare debito è facile se qualcuno ti dà i soldi, però poi qualcuno deve pagarlo questo debito, e il fatto che tutto è saltato prima che qualcuno pagasse il debito. Quindi ci troviamo in una situazione in cui la società occidentale deve ripensare un po' proprio i propri valori di fondo. Io credo che l'uomo debba domandarsi a cosa serve la vita umana, eh? Se la vita umana ha senso o no, e se sono vere o non sono vere tutte queste tensioni che vengono create intorno all'uomo in questa epoca cosiddetta nichilista, no? Questo, il più grande dramma della nostra epoca è il nichilismo, cioè il voler non riconoscere nessuna verità o riferimento assoluto, così che l'uomo veramente si sente e vive come un animale. Un animale intelligente, un animale che considera che è etico è soltanto quello che lui può toccare, il reale, così che diventa etico solo il profitto, senza prescindendo da cosa serve e come viene fatto, così che diventa etico avere le cose, toccarle, tangibile, la materia, completamente ed esclusivamente la materia. E l'uomo si animalizza sempre di più perché evidentemente si dimentica che oltre la materia in lui c'è qualcosa d'altro, che qualcuno la chiama scintilla divina, qualcuno la può chiamare anche esigenze di spirito, però non si soddisfa l'uomo soltanto con la materia e dandogli cose. L'abbiamo visto, l'abbiamo riconosciuto, e l'uomo deve conseguentemente ritornare a ripensare. Come a farlo? Io non lo so. Ci vorrà una fortissima dose di riflessioni che questa grandissima autorità morale che il nostro Papa sta cercando di cogliere ogni occasione per dare, ma non attraverso dogmi di fede. Il Papa nostro è ragionevole, è razionale, sta prendendo le persone per il cervello, non per il cuore e basta. E quindi il messaggio che possiamo dare soprattutto ai giovani che guardano con questa società un po' complessa, confusa, sicuramente in cui c'è una crisi di valori, comunque un messaggio di speranza, che con la costruzione di ciascuno, con la responsabilità di ciascuno si può costruire una società più giusta. Ma senza dubbio, ci mancherebbe altro, questo sarebbe un pessimismo completamente sbagliato. Ma il suggerimento ai giovani è studiate, primo, studiate più di quello che vi fanno studiare, cercate di avere buoni maestri e fate riflessioni anche su un punto fondamentale, che la libertà di agire, se non ha un riferimento forte, che è una verità, diventa una libertà irresponsabile. E quindi essere responsabili facendo le cose, e questo anche l'augurio che facciamo agli impegni di Ettore Gotti Tedeschi, responsabile del Santander in Italia, presidente dell'Istituto dell'Opera della Religione, la Banca del Papa, un impegno molto forte. Anche in questo impegno indubbiamente ci vuole responsabilità e grande passione. E anche tanta preghiera, visto che una parte enorme di me è consacrata a dare un servizio alla Chiesa. Grazie a Ettore Gotti Tedeschi, buona domenica a tutti, grazie a quanti ci hanno seguito, grazie ad Anita Panizza in redazione, a Pietro La Corte in regia. Questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere ascoltato in podcast sul sito www.radio24.it. Ancora buona domenica.